Avevo assaggiare il pene di lupi Arno, va co carro, manco se sta cenando. C'è un bicchiantù per ci pudim piarno, ne fa contare quanto giorno è nanno. C'è l'upagione che ci pudim piarno, ne fa contare quanto giorno è nanno. C'è don Carmeno che corre tiranno, tine tire, lo corre pinne pinne.